che è forte. Lubrofei, questa radio com'è? Buona, buonissima, buonissima. Niente da eccepire. Tutto orogeno. E da te, Marcolì, come ti arrivo? Buona. Ti dirò che alle volte, siccome è un po' più bassa, sembra più chiara questa. E meno effetto stanza, quello che praticamente ti voglio comunicare. Sì, buona. Al profeta volevo dire che stamattina c'era una propagazione strepitosa per l'Italia e anche l'altro giorno, che era Gianni, quando era ieri o l'altro ieri, cioè QRM 0 e l'Italia che arrivava 9 e oltre 9. Due giorni fa. Come? Era due giorni fa. Più stamattina. L'altro giorno abbiamo collegato tutta quanta l'Italia. Io ve l'ho detto, mi ho acceso così, che ho altre cose da fare e quindi ogni tanto accendo, entro, adesso tipo stasera, giusto una chiacchieratina e poi vediamo come si evolve la serata. Una richiesta, mi date un controllino di radio e di segnale per cortesia, per vedere se la macchina a vapore funziona bene. Da parte mia, Santiago 920, la radio Super 5. Non so che zona sei, io sono zona San Camillo. Qui c'è 930, Lubrofei, la radio è perfetta. Radio buona, la solita, segnale con questo apparato non te lo do perché non si capisce qua quale sia il fondo scala. Praticamente non è più come una volta, Smith, non sale più di tanto già. Presumo che sia forte però. Purtroppo, vabbè, si smettono, vanno e vengono. Bene, bene, dai. Vuol dire che la macchinetta del caffè già funziona, dai. Microfono normale e 4 watt in antenna. Tutto qua. Tra questi che ci stava contattando in propagazione, ce n'era uno che stava usando una Venom mezz'onda e i watt dell'apparato. Adesso non so se fossero 12, 15, una cosa del genere. Così, proprio propagazione folle e anche con poco QRM, mentre altre volte è tutto bulotto e non capisci niente. Vabbè, adesso vediamo. Poi è cessata di botto. Poco prima che entrasse Gianni, stamattina si è proprio azzerata la propagazione, si è chiusa. E pazienza, adesso aspettiamo. Sì, come sta guardando il tempo, si è chiusa la propagazione, capo. Mercoledì sto usando io la Venom in questo momento, c'è sempre questa come antenna. Leia, e l'altra era, io ce l'ho sempre di ricambio la Venom, mezz'onda, quella che Gianni ha inaugurato, ne stavamo parlando l'altro giorno con chi, e non mi ricordo. E quell'antenna tu è stata tutta pulita e messa in busta per usi futuri, ma tu devi vedere Gianni il nero che c'era sull'antenna, ed è lo smog, quello dei treni, quello degli autobus che ti affumicavano anche la casa, delle macchine, incredibile, guarda, ma incredibile è quello che respiriamo con i polmoni, perché lì va sull'antenna, noi li respiriamo e ci vanno in gola quelle cose lì, nei polmoni. Gloria, pacari dai, già me lo ricordo quando l'ho provata, che l'abbiamo tenuta qualche giorno, ma ti ripeto, come ben tu sai, praticamente qua rispetto a quella che ho attualmente non c'erano assolutamente grandissime differenze da poter giustificare l'acquisto. E niente, quindi è detonata giustamente al legittimo proprietario. Per Torino io sono coordinata in stazione ferroviaria. E come ti arrivo io là? Bello pimpante, adesso non c'ho gli occhiali per vedere lo strumentino, comunque credo che sei fondo scala più o meno qua, dai, non ho gli occhiali per vedere, per darti un referto preciso. Allora è buon meno, dai. Se vedi la mia antenna di Buonarini, dove l'ho messa, quindi l'ha vista anche Luca, e per le condizioni che io sto modulando, è ficchita in terra, ha fatto un printo di cemento armato di 2,5 quintali, fate il conto, è messo a tubo là. E allora già non si muovi. Oh, yeah. Poi tirate via. Bene, bene, doppio. Ehi, Tony, lo sai, è vero, non sono quelle antenne buone, sì, si usi pochi watt, ma quanto mi ha detto Franco, se alzi appena i watt, li dà subito stazionarie. Io ce l'ho manetta e watt watt, perché Franco credo che abbia provato, quant'era già, un B300? Ah, ha detto che anche se usa il Kenwood alza appena appena il watt, che vi darà 50 watt con portante a 10, punta, vi dà 50, e ha detto che quando risalgo subito alle stazionarie. Oh, con soli 50 watt, boh. E beh, io non te lo posso confermare, perché Gianni che l'ha provata mi pare avesse sempre quei 4, da 4 a 8 watt degli apparati, credo non oltre. Io di mio non l'ho provata, quindi non saprei dire. Oh già, a me nella busta dell'antenna quando l'ho comprata, fatta arrivare da fuori, dava sui 5 ottavi d'onda questa antenna, eppure non me l'ha mai dato stazionare. Sì Tony, ci sono, a parte i watt, no, ci sono 4 modelli. Prima era mezzo onda ovviamente senza radiali e 5 ottavi con radiali, quelli corti. Adesso fanno anche la mezz'onda con i radialini, che non ci stanno a fare niente, e la 5 ottavi senza radiali, che lo stesso non ha senso di esistere, però le fanno. Io ho 3 radiali, belli grossi e corti, e 5 ottavi d'onda c'era scritto, l'ordinata per quella è quella appena mandato. Ehi, ma lo sai qual è il problema, Marco, secondo me? Che ha il filo... che è troppo fino, il filo interno, quello interno, che è troppo fino, quindi non regge il watt. Sì, sì, io vi avevo mandato le foto della bobina, chiamiamola bobina, Sì. Sì, ma l'avevo vista anche io su internet, ero andato a vederla, perché mi stava incuriosendo quell'antenna. Io ho messo il microfono al mare, come mi sentite? Perfettamente. Vedi, così tu sei bello. Accidenti, io. Avanti un profè, questo microfono proprio più normale non esiste, è il suo originale. Va bene Tony, in tutti e tre i casi la radio è un bijou. Vabbè, diciamo che la mia timbrica di modulazione è bella alta, grossa, ecco perché sono così. Perché qualche duro mi ha detto, la tua timbrica di voce, qualsiasi microfono che metti esce bene. Io per esempio non conosco la voce in verticale, non saprei dire se è fedele. Gianni la conosce la mia voce. Sì, è fedele Marco, è uguale a come in verticale. Infatti lui non ha bisogno di amplificati, l'amplificatore ce l'ha interno. Cosa si rubone a fare l'amplificato? È più chiara così la radio che quando mette lo shooter. Cioè, amplificazione interna, è così ho già. E soprattutto ne giovano i nostri timpani. Avete parlato due. Ho detto soprattutto ne giovano i nostri timpani. Bene, bene. Vabbè, dai, comunque. Ogni tanto io cambio microfono, capito? Lo cambio perché a tenere in mano lo shure, perché qua nel mube non ci sta, è troppo grosso, è troppo alto, e quindi non mi va bene. Ogni tanto metto il microfono a palmare, quindi lo tengo in mano a leggero e va bene. Poi io c'ho uno spazio qua, se lo portare. Oh profe, sempre ci tenta Gianni, Gli prude, lo vuole a tutti i costi. Ma io lo conosco troppo bene, troppo piano lo conosco. Lui quando sente una cosa che va bene, la vuole lui, come un piccolino, vedere la caramella la vuole lui, la vedere il cioccolato la vuole lui. E sono come bambini, sono. Ce ne ho un microfono, Tony, se ce ne ho amplificati, addirittura ne ho uno staccato perché ce l'ho in più, figurati tu. Ne ho un microfono e tutti sono belli performanti. Questo qua se lo alzo, qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ho abbassato perché tutti mi dicono troppo alto e allora lo tengo così. Se ce n'è più, dammela a me che lo metto nell'altro baracchino. Cosa? Se ce n'è più, però da me che me lo metto nell'altro baracchino. Quindi parla troppo in fretta, non capisco. Tu mi ascolti a 78 giri, ho detto, se lo hai in più quel microfono, lo dai a me e lo metto nell'altro baracchino. No, questo è di riserva, se si dovesse rompere uno c'ho l'altro. Ah, tanto c'è tutti i nostri attacchi. Ma io dovevo i microfoni lì. Avanti Marco lì. Eia, no, non sono più rientrati. Luigi Vulcano non ha più ripreso, Luca, vabbè Luca sta creando. Chi c'è rimasto qua? Abu. Tutti all'opera. Anche Natalino sta dando forfè. Ho mai visto il tempo come è cambiato la furia. Come è cambiato? La moglie è malata, se no poteva essere a Porto Torre. Aspetta, Nino mi ha chiesto come è cambiato, cosa? ho detto com'è cambiato il tempo. Sì, sì, sì, io stavo contrattando per sapere se facevamo un coso in campagna, invece vedo, cavolo, vedo le nubi nere quasi sopra di noi, per non dire sopra. Ma c'era un bel cinema, ho visto la mattina, mi sono stato, che erano le 6, e alle 7:15 stavo già tagliando l'erba fuori. Ho tutto bello rasato, un caldo si crepava, poi invece alle 11 ha attaccato il mio vicino, ecco, il mio detto, ma scusa, c'è troppo caldo, dove fare la prima pezza questa sera? Niente. E poi invece pomeriggio mi sono un po' appigionato, poi mi sono alzato poco fa e vedevo gli altri che si muovevano, poi di vento, ma esco fuori, cavolo, a me mi faceva, ha cambiato totalmente. Ma tu l'hai sentito Eugenio poco fa cosa ha detto? Stava tornando dal sud Sardegna, dal sud, là diciamo. Ma noi siamo al nord, ci decidi al nord. Non tanto sul tant'è chi guidava la macchina si è dovuto fermare a bordo strada. Dice la fine del mondo. Avete parlato in due. Cacchio, vado. Vai. Allora, aveva detto Eugenio che tra Torralba e Ardara c'è stato un nubifragio che le macchine si sono dovute fermare a bordo strada. Dice la fine del mondo. Sì, una bomba d'acqua, cavolo. Arriva da noi, mi. Ricordati già il discorso che ti ho fatto riguardo ai fulmini. Se arrivano i fulmini sono più attaccati all'antenna. Avanti già. Io ho le mani non si colombe. Cava cava, Marco, bindasciuga. Vabbè, no, io scherzo, però qua tra ponteggio è tutto metallo, qua è tutto un ferro, tra antenne e ponteggio, straccio tutto, se scompaio di botto vuol dire che ho staccato tutto l'alimentatore, tutto quanto, antenna, tutto. Tu a che piano sei, Marco? Che modulava nella zona della Landrica, aveva messo l'antenna su un mulino a vento, un palo, 20 metri. E un bel giorno, sì, tempo brutto, un fulmine ha preso l'antenna, ha percorso tutto il cavo RG8 che c'aveva e gli ha incendiato mezzo salotto. Non so se l'avevate saputo. Il cacchio, no, però da poco era successa una cosa del genere a un radioamatore. Guarda, mi vengono i brividi solo a sentirne la descrizione di quello che ha fatto il fulmine. E Gianni, si è rialzato. Sì, l'avevo sentito io Tony con la storia, l'avevo sentita anch'io. Beh, è una questione di fortuna, perché c'è quello che magari stacca tutto e gli entra dalla corrente e non c'entra nulla l'antenna. No, tesoro, tu stacchi l'antenna, quindi se a posto io stacco corrente e antenna, e il PL lo metto per terra, quindi al limite si scioglie il capo e poi non fa danno ai baracchini. Sì, i baracchini no, ma non avrai altra roba attaccata in casa che va elettrico, tipo frigorifero, televisore, eccetera, eccetera. Può entrare anche da lì, mi. Se prende la roba elettrica. Ripeto, non mi è mai successo, mai. Se succede pazienza, vuol dire che il televisore è tassato, poi ci lo butterò via e me ne compro uno da 75. Poi, Tony, agli punti era successo, e chiedila a Giulio, agli punti un fulmine aveva fatto un casino nero, aveva incendiato quadri elettrici, di tutti di più, elettrodomestici, televisori, di tutti di più e fasciati. Se succede da contatore, ti fa risorgere dall'ENE, uno smazzo di corrente, eccetera, eccetera, che stanno facendo, per esempio, degli aggiusti, però come attaccano, capito. Però se arriva un fulmine non si può fare niente a nessuno, pazienza. Luprofe, ti stai mantenendo, sì? Sono qua, no, stavo dando un'occhiata alla finestra per guardare l'evoluzione del meteo. E niente, sta arrivando aria nera da queste latitudini. Ecco, l'unica sacca di pelle. Sì, io ho infatti temporale in arrivo con una bella saetta, due goccioloni grossi nel meteo. Avanti Mercoli. Sì, riprendete voi che faccio una pausa, dai, vado a bere e forse a fare un caffè pure. E fai la pausa, fai. Ma ti sembra ora di entrare? Stavo facendo l'amore, Marco. La musica sopravvive. Ah, ecco, stavi facendo festa grossa, ecco perché, vabbè, noi ti stavamo desiderando sul canale tutta la sera, ogni tanto ti chiamavo, ma niente, dai, va bene, riprendi Natali, bianco per me, vada bene. Ciao Natali, c'è una bella presentazione, musicale sottofondo. Devi mettere GTM, c'è Natali. Metti GTM con te. Oggi Natalino mi ha mandato il buongiorno, buon sabato, e tu guarda che oggi è domenica. Natalino si è famoso dalla televisione. È rimasto un giorno arretrato. Andate tutti a cagare. E va fame, sta ordinando, chi è? C'è uno che grida, chi è? Ha ordinato, facciamogliela, dai. Ma non era Manuele che ha fatto la battuta? Eia, se c'è fame facciamo la tortiglia. Le polpette. Ciao Manuele. Ciccomi. Viciola. È sparito. Ciao Natalino. Ciao bella me. Stiamo parlando di fumi, di troni e quant'altro. E in effetti mi è sembrato sentire un tuono. Allora tutti andando, staccate l'antenna e mettete il piede per terra. Sì. Tutti alzi. Se me lo brucia, non vedo più. C'è anche la colonna sonora tragica, mi tipo fine del mondo. Quella è la musica è Dario Argento, attenzione. Ha fatto l'introduzione con sottofondo musicale, più di gusti di voi. Ciao Natali. Sempre con me ce la prendono, bubu, perché sono piccolo e nero. E tu usa, ama come l'ama. Nero già è vero, ma piccolo no. Anche piccolo sono, e allora? Io sono più piccolino. Oia. E cos'è, in girella, io o brumidu? Brumidu, io. Anzi, gioco ancora a brumidu. Pur se mi sono usato là. E come mai sta questa stanchezza? Te l'ha detto che stava fischiando con Concetta. Cosa? Che Concetta non sta bene, cosa si disegni? Oh, lui l'ha detto, ve lo leggo io. Mi stavano tubando. E io glielo ho detto, non fate cicchi cicchi perché sennò poi contagia Natalino. Ma Natalino le piace essere contagiato. Ma male a questo Gianni. Ma sempre nelle camere di mezzo, hai visto? Rimba mala, Tu già, Io sto dando un consiglio saggio. Ah, già a proposito, mi sono fatto un ascolto di cerati. Ma, guarda, non me ne parlare. Che l'altro giorno mi ho preso una scatola di pinguini e da arrivare dal negozio fino a casa non veniva più. E pensa, così è troppo, dai. Io ho preso cornetti giganti da Lidl, ho preso il magno al pistacchio, è una cosa favolosa, dentro c'è il cioccolato, tutto crema, ma così buono, cavolo. Poi ho preso altri cornetti, poi ho preso i pinguini, poi ho preso, e un casino, mi sono fatto il cassettone pieno di gelato, a me per, non so, un mesetto non esco. E l'ascolta ti è fatto come le formiche. Gamba, non ne vuoi sapere da comprare gelato, capito? Per cui avevo paura che ho preso la borsa a frigo, ho detto non sa mai che poi, durante il viaggio poi mi si squaglia con il canto che c'era per il caldo oggi. Niente, adesso tranquillo, sono belli a posto, ho girato adesso dopo cena, una sopra lo mangio, leggero leggero. No, io mi compro quelle maschette e la stracciatella, o anche meglio fior di latte. Ci metto il caffè, oia, è una delizia. E te Natali, poi ti chiamai a buon come. Mi sta costringendo ad andare a comprarmi i gelati questo qui. Anni rapini, che sono diabetico, me lo bene. Anche lui lo è. Fatto la fama lui. Anch'io lo sono, tutti lo siamo. E a parte degli scherzi, in frequenta ce n'è un bel diabetici. Perché gli piace la roba dolce. È colpa della radiofrequenza, fa venire il diabete. Tu non ce l'hai, devi cantar vittoria. Aspetta, se continua così Marcolino che lui viene. La glicemia prima era ottimale, era a metà, poi 10 punti in più, passano ancora altri anni, 10 punti in più, adesso siamo a 2/3 di glicemia rispetto al valore massimo, ci stiamo avvicinando al punto di non ritorno. E poi a proposito di gelati, io sto schiattando perché qua ho mangiato, abbiamo dato fondo a tutto quello che c'era di gelati, mi sono ciucciato anche le formine del ghiaccio. Marco, io ho avuto una specie di coso, di visione, spostato la canna per fare la taglia, ho trovato un cornetto in mezzo. Non mi sembra povero. Mi ti fa male, mi. Oh, io che roba buona. Oh, comunque io mi sto gelando. Ma si può essere uno più babbeo che sta a torso nudo in mezzo alla corrente? Ciò, questo aperto, quell'altro aperto, io a torso nudo, e poi mi lamento, c'ho la voce rocca, c'ho la voce afona. Aspetta che mi tappo. Vai Gianni il profeta. Ehi, vai e tappati Marco. Noia. Non è il caso di rischiare. Noia. Cosa volevo dire? Adesso mi sfugge, dai, appena me lo ricordo ve lo dico. Volevi dire qualcosa riguardo la mia timbrica, per caso? No, negativo. No, forse ero roba ai gelati, dai, boh. Vabbè, quando me lo ricordo ve lo dico. No, perché ho cambiato mai, che non ve lo potevo dire, però questo è il palmare. Il palmare, il KPO, stessa distanza di quello da tavolo e grosso modo stessa regolazione dell'amplificazione. Qualcuno aveva notato niente? No, esce un bel forte questo qua. A quanto ce l'hai Marco? Al centro? Diciamo, al centro sarebbe a 5, questo è diciamo quasi 6, 6. Qua io ho la stessa regolazione, come va? Forte, un bel forte già. Vedi, mi sta prendendo la gola, mi frega sempre così. Se è necessario lo abbasso, era per farlo lavorare, va bene. Che poi con quello da palmo io di solito sto così a quattro dita di taglio o di tre quarti. Va bene, funziona. Passiamo al prossimo mic, a dopo. Faccio il caffè prima però. Riprendi Natalino. Io sto usando lo stesso microfono, Marco. Ma io scomiglio, vero? Dite che scomiglio. Cappa. Ma davvero? Esce fuori, bella grossolana, perfetta la voce, chiara. E che io parlo in fretta, allora dovevi parlare. Test, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, 4, 5. Che voce calda. Questo mi accoccondo. Ah, lo dici così. No, aspetta, ti fighi. Fai così. No, che c'è la forfora poi. No, a me piace molto, ma molto la modulazione di Natalino. La timbrica, guarda, è pressoché perfetta, a parte il rumore di fondo, però è di una chiarezza. Tienilo conto, amico il Mike, Natalino, non lo vendere. E anche il baracchino, tieni conto, capito? Che già ci sei passato una volta. Epa. L'ha capito che è tutto dentro? Questo già mi ha mandato. Ehi, vabbè. Bene, a dopo, Bianco, vai Tonino. Caffa di Rogero, avanti allora Gianni, dai, che tu stai pensando ai gelati, dai. Ehi, no, io sto pensando alla regolazione del microfono, stavo controllando, qua adesso lo metto al massimo, come va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Per me è troppo forte, nel senso, non forte quel forte come amplificazione. Mi amplificazione però sembra che sta attrappato leggermente. Troppi acuti alti. Guarda adesso come va, lo sto regolando. Fai un passaggio più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Più o meno, dai. Ci è messo un altro pochettino. Ma devo abbassare ancora, ho capito. Così va bene. Adesso sei tu, Gianni. Lo lasciamo così. Oh Gianni. Ehi. Allora, vabbè, praticamente ho gli adattatori microfonici, no, mettendo lo stesso mic sui vari baracchini, ci sono differenze abissali dall'uno all'altro, abissali i concerti. Per esempio un'impresidente risulta molto acuta, troppo acuta, però se hai un MB più 5 puoi correggere chiudendo i toni a zero. Se non hai la regolazione di toni sei fregato e si usciresti troppo acuto. È proprio diverso, è proprio il modulatore dei superstar diverso da quelli president, che è diverso dai CRT, che è diverso da quell'altro Intec che c'ho, e poi ho preso il conto anche, vabbè, ci hai capito. Sì, l'ho notato anche io questa cosa, che anche l'amplificazione, ci sono apparecchi che ti danno più amplificazione con certi microfoni che altri. Sì, è quello che fa il modulatore stesso del baracchino. Però cacchio, vabbè, comunque è una buona sapersi. cioè, io dico che a me piace più semplice il mic da tavolo, però avere la regolazione dei toni non è roba da poco, già è utile quando serve. Ok, vai, riprendete, vai, chi altro c'è? Natalino, vai. Nel K. Oggi lo sapete che ho collegato un'onda laterale, un Alfa Tango, ho collegato di Trieste, una bella arrivava. Ce l'ha messa? No, è un film che sta guardando mia moglie e ce l'ho a due il microfono, vai, in onarona. Facciamo Riccone che sta suonando lì in casa. Io una volta, una mattina sì, verso Fiorreno, le 8:30, 9, avevo Icca a casa, un'amica, e oggi sul baracchino mi ha fatto vedere, ho provato a chiamare, pareva tipo strano, e ho detto io Italia, tu, mi ha detto un nome strano, poi Russia, l'amica mia, Russia, tu sei Marco. No, la Russia già arriva. Li ho sentiti molte volte, non c'è problema, Baghissu, arriva l'America, la Russia, a vederlo da Rivini. Comunque Trieste è un bel difficile, eppure l'ho collegato, in manda laterale, 27,560, li ho collegato. Figurati. Franco di Trieste, 1AT879. E comunque dice propagazione. Bello, sì, non sente sempre niente. Ma la mattina è raro che lo accendo, capito? Io quando stavo parlando con Marco, poi sono passato in banda laterale, che ho sentito a questo qui, ho fatto chiamata e mi ha detto di spostarmi a 5,60. Mi sono spostato a 5,60 perché bisogna mandarlo a zero, no? Questo qui. Se no va a 5 normalmente, l'ho mandato a zero, una belva arrivava, la direttiva stava parlando, lui in orizzontale, io in verticale, una telefonata. Non stava a chiedere nessuno, io mi stavo sbrogliando il filo qua che è un casino. Siamo qua. Marco è andato a pigliarsi un caffè, e magari a prenderci anche il gelato, pure vedo. E allora, alle prese con i gelati sono. Natalino, sono facendo apposta per te. Ma domani devo andare a pigliarmi le fisce intanto, in farmacia, se no non mi posso misurare la glicemia. E quindi vado e mi compro una scatola di pinguini, perché a me piacciono quei cremini. E mi piglio quelli lì. Hai visto le mie sono tutte diverse, cioè il basso volume qua, ecco. Le mie sono tutte diverse. E cosa? Guarda, non ti comballe ne ho me. 10 scatole te le avrei date. Le macchinette diverse abbiamo, e cosa vuoi fare, Tony? Se avessi avuto la macchinetta uguale alla tua, ma una me l'ho comprata, addirittura io ne ho due di queste macchinette, una me l'ho comprata uguale per avere le stesse strisce, invece ho sbagliato. Chissà perché le danno tutte diverse, e sono sicuro che Gianni ce l'ha diversa ancora a me. Sì, perché l'altra Gianni stesso non ne aveva, e io ce le ho, ma non era compatibile con le mie. Vedi. Magari non si trova neanche più quella che hai tu, la macchinetta. Ma io mi sa non la faccio cambiare, dico mi sei cautettiere, mi sei rotta. Ti dicono di portare la che ti controlla, te la controllano, l'hanno fatto anche a me. E io la spacco, la cuda a terra, e come mi sa che è caduta dal terzo piano e mi sei rotta. Ma non va a chi si va in tutti gli istituisci, si conviene a Tinilla. Se no da voi non vai in istituisci, che ti ridate nei contatti, non lei mi ne date una cattura solo. Infatti domani se non mi rispondono un telefono, no, se non mi rispondono vado di persona e glielo dico questa storia, per se riesco a buscarmi, però una scatola di riserva me la compro. Ma cosa, intanto io Marcella un ghicistrice mi dingo, boh, ma io non esorgo con la scusa che mi ha tolto tutte le insuline, ne faccio una solo, anche le strisce mi ha tolto, una scatola solo me ne sta dando da 25, cosa vuoi che siano 25 strisce? A me 125 me ne sto dando, e E c'è questo, allora io per tempo fa, tempo addietro, me ne misuravo una qualche volta, ecco perché non me la sta lì, capito? Non voglio esagerare, ma ne ha più di 1000, quindi. E mi sembra che un'altra di queste macchiette, non mi ricordo dove l'ho messa, perché me ne avevano detto che l'avevo persa, non mi ricordo più dove l'ho messa, e quindi automaticamente me ne ho dato un'altra uguale. Io dovrei avere un'altra uguale che è andata lì. Se la trovo te la do e ti do le strisce. Guarda che mi fa un favore, ti unica, perché sennò non ne ho strisce di riserva. Allora mi la devo comprare io una carta, costa 17 euro l'una la carta, da 25 mesi. Questa macchinetta, dopo lungare i vitrici. Come mai? E noi non dovremmo pagare questa roba qua, non sta lì. E secondo il piano terapeutico, Tony, a me pure me ne dava 125, ma mi facevo 4 insuline al giorno, mi facevo. Siccome adesso mi ha detto mi devo misurare 2 volte alla settimana, tutta lì, e sono 25 puntati. Non me ne ha dato una in più di triccia. E se no, mi la di uno, cazzo, già c'è per mandarmi fare il farmacetto, posso vedere quanto me ne dati. Una scatola. Molte volte non mi dà neanche gli aghi, meno male che già ce li ho gli aghi per farmi l'insulina. Ma dimmi, io non abbaccio a comprendici. Gli aghi per l'insulina io addirittura non le sto neanche ritirando, perché me ne danno 200, che cosa ne posso? Io ne ho 2000, ne ho troppe scatole, ogni scatola ce ne sono 100. Il pugilito ne ho un casino lo stesso, la lì. Quindi a vera posso. E anche io quelli ce li ho gli aghi. Meno male che ce li ho. La vita trovi quello che cazzo. Dimmi tu. E anche pugilito ne ho. Ma io non mi so cui sei. Adesso se non mi risponde l'infermiera, tanto non mi fanno parlare con lei. Vado di persona, l'unica, l'infermiera, se c'ha qualche scatola di strisce a darmi, che non me ne dammi io a chi lo so. Però dico di famiglia aumentà, a chi la di uno mi tocca, se no andando la di uno me ne date una scatola addorra, e boh. Sapete una cosa, che se si misuri prima di colazione, dopo pranzo e dopo cena non ti passano più, l'acqua per arrivi dopo 8 di non è più. Avanti Gianni. No, tu riprendo io, Gianni non ha ripreso. Ma le devo misurare prima di colazione, 2 ore dopo colazione, prima di pranzo, 2 ore dopo pranzo, prima di cena e 2 ore dopo cena. E so 25 puntati, ma due volte la ghida, mi. Cazzo, una scatola me ne dà. E trovo qualcuna difettosa e non mi bastano le strisce. Che ne trovi spesso volentieri con le difettose? Ma io ne ho pizza per i buchi, proprio adesso non certo la lì. E te la do, perché ripeto, so anche tutte le strisce che vuoi. Pugilito ne esci, ma se lo penso che vuoi pugilito, non lo so. Naggio, cantini voi, pugilito, gli annaggio. Pugilito, gli aghi per farmi l'insulina, già ce li ho. Ma è una stronza la diabetologa che fa il coso, il piano di terapeutico. Infatti secondo me andando a Migiambe e mi andando a San Camillo mi andando. Andiamo a fare un E capo dai. Già la guardiamo, già ne sarei spostato, ma già è suggerato senz'altro. Rubro Fe. Eccomi. Sono qua, sono qua. Oh yeah. Mi sa che vado a, mi sta scendendo la bacchio, la biocco, mi sa che vado a prendermi un caffè dai, bulueo. La bacchio, non c'è a Roma così. Lui, io poco fa mi sono fatto una bella baghezza della casa con la mortadella al pistacchio, che buona. Beh, adesso ho visto che mi è venuta la voglia, vado e mi rubiglio a vero il caffè. Dai, ci risentiamo tra una decina di minuti. Capo, già siamo qua. Marconi non si è entrato. Vabbè, io tu una lì. Ma che tanto Gianni, chissà cosa fai. Si sarà mangiando la bacchetta di un gelato, visto, alla faccia mia. Davvero, tu se ne prendi la bacchetta, se ne prendi i gelati. Sì, su gatta, si risbrana i gelati, non è che si rimangiano, risbrana. Ma io l'avevo conservata, c'era anche la bustina sua nera dove c'era tutto quello corrente. L'avevo sottratta, lavato la bustina, tutta la macchinetta. Non mi ricordo dove l'ho messa, la devo cercare. Comunque, non penso di... Io sono tutta la sera cercatola, più o meno, solo per mettere una roba. Sì, cazzo, se la trovi e mi dai... quel po' di strisce che mi hai detto, cazzo, so che a darla, se ce la può pigliare, guarda, ma io me l'ho presa l'altra per poter uscire fuori con la macchinetta, in modo che se mi capita di dovermela misurare fuori, ce l'ho nel borsello l'altra, solo che non va agitrici, a chi mi raggiù tutti i consumati, dimmi tu, e me ne dava 125, anche a me me ne dava, quando mi facevo 4 insuline al giorno, ah, ma me ne posso solo una di notti, e in più mi ha detto di misurarle due volte alla settimana, e così sono bubelli, allora fanno finta a radio 1, non me la posso misurare, ma domani andiamo a ricompare i giudici, perché io devo sapere a quanto ce l'ho la glicemia, non lo so questa qui. Guarda, un secondo faccio la foto dove ho tutte le strisce e te la sto mandando, solo un secondo. Adesso te ne mando la lì. Ho fatto le foto anche degli agri per l'insulina. Tu pensa, dove c'è gli agri per l'insulina sono la fila da due. Allora, adesso andiamo qui. Guardo via. Quando ti passano, così sono un burundi. vi lo dica l'infermiera, che tanto non mi fate neanche papità alla dottoressa, no? E gli dico di aumentarmela di una scatola, perché ne ho trovato difettose e me le ho dovute comprare. E io soldi per comprarne non ne ho. E non ne compro più. Non ne misuro e basta, gli dico, se non me ne dà una scatola in più. Poi in più. È normale, perché ne ho trovato difettose e mi sono trovato in difficoltà, gli dico. Beh, certo. Ma sono moderato, ma fa, mi sembra che sia una piccola portantina. C'è qualcuno che vuole entrare sul 10? È da Santiago 7. Vabbè. Ok, e beh certo con quella famiglia. Poi c'è abbastanza chiaro. Io meno male che ne ho tanto, tanto, tanto. Io devo trovare subito così te la do la scappa, volutamente, così meno. Come vuoi. E uno di colpo e so, ti siete posta la lavora in essere come te mangiare la glicemia, me la voglio misurare una volta in più, anche tre volte alla settimana, cinque volte alla settimana, cioè, non lo puoi fare, perché se tu fai così, a te non ti basta di più, tempo, la ghida di non è più. No, misurazione in più non ne posso fare con 25, no, assolutamente. Io ce l'ho da 25 la scarta da 50, pensa un po'. Ma io mi sono cacciappato così da un momento all'altro. Ma cosa, io mi la misuravo prima di farmi l'insulina, me la misuravo sempre, no? Ma tanti, mi ha cavato l'insulina e mi sono trovato senza aghi perché me li avevo tutti consumati. Ma dimmi tu. A me me dà sempre 3 da 25 e 1 da 50 le scatole. E fuggito. E scusa, ne ho meno, le ho sempre conservate, quindi poi. L'ago, il pugilito già lo sai, la puoi usare due o tre volte perché intanto non è che non misura fra niente. Se vorrei misurare un'altra persona io cambio l'ago giustamente, quello metto via. Sì, ci sta quello lì, no? Cazzo. Io nascio di due zitti, va giù di sì a Tamburo, che viene i sei aghi, no? A pugni cirurito. E girano automaticamente aghi, un preso. E più c'ho quelli con gli aghetti. Ne ho di due tipi di pungirito. Beh, un attimo mi sono tornato indietro subito. Si scappa. Eccomi. E beh, chi c'è rimasto? Io, perché il profeta è andato a farsi il caffè. Gianni non si sente più e Tonino non si è portato un attimo. Eia, sì, lui l'ho sentito adesso. E Gianni sta raciuffando. E anch'io mi sono fatto il caffè. Peraltro, siccome abbiamo finito le capsule, stiamo usando un decaffeinato che ci avevamo di scorta, ma era già mezzo aperto, cioè, e comunque è troppo amaro per me questo decaffeinato. Quello in capsule era molto molto più dolce, questo è amaro, lo devo zuccherare di più, però non mi piace, fatto con la mocca, nel complesso non mi piace. Io ho capito. Come diceva Manfredi, il caffè è buono, se non è buono che piacere. A noi il caffè è un piacere, se non è buono che piacere. Mi pare a me. Ho visto le previsioni e domani potrebbe essere piovosa. Che palle, guarda, che palle. Poi devo fare tante commissioni, andare al medico, andare all'impicco, insomma un bel po' di roba da fare, dai, non si finisce più. Per domani come sono le previsioni, Marco? Pioggia, aspetta, ti dico, sempre che non cambi, no? Ho guardato il meteo, ilmeteo.it, preferiti, meteo Sassari, proprio di Sassari, già ha messo fulmine oggi, ecco, andiamo bene, potrebbe iniziare già a breve, potrebbe iniziare anche adesso, dice abbondanti, con tanto di fulmine e quindi tocchiamo ferro, poi domani, alle 8 modeste, precipitazioni alle 8 modeste, alle 11 modeste, però un po' più intense, con una pausa, poi insomma vabbè niente di te, neanche di, però piovigine dai, secondo me, da piovigine a pioggia moderata, se non cambia. Sì, perché domani è un casino di roba da fare. Devo andare diabetico, perché sicuramente non mi rispondono, perché sennò mi danno una scatola solo di quelle strisce per misurarmi la glicemia il giorno 1, e quindi devo dirgli di aumentare. A chi io mi sono in difficoltà già da oggi, sicuro. Meno male, le ho avute per l'ultima misurazione e non ne ho trovato nessuna difettosa, se no mi fregava, perché sono, le devo segnare quelle glicemie, capito? Perché a luglio c'ho la visita e quando c'ho la visita gliela devo portare tutte scritte, no? Ah, bueno, mia Luca, mica era entrato, finalmente, finita di creare. Non ci fate caso a me, ma io sono qua, però sono là, sono qua, sono su, là, boh. E così sono io, ci sono ma non ci sono. Cappa, va bene, allora vediamo se rientra il perfetto. Questo dovrebbe essere il caffè lungo. Ciao Luca. Ciao, tutta lì. Con la panna, una volta compravo quelle pannine per il caffè, quelle piccole ciotoline di plastica, no? Che poi è latte, alla fine non è nemmeno panna, è latte, non è cremoso, tanto vuole mettere la panna per dolci sul caffè, ui, quella è la perversione mia, mi massima. Natali, Natali. Ehi, dimmi. Ah, che so caggio, detto virai, che so che ti ha già mandato al telefono. No, l'ha già detto nulla, ho tu a capo mio, io lo sai, Luca, a fottidini. Ehi, aggiudiva la... già fregatene. Che infatti devo fare così, visto come mi trattano lì. Ma è cosa ti ha già detto? La gente poi parla quando non lo sa. Cioè io ci sono lì e secondo te non l'avrei saputo. Ha già mandato subito l'email, il giorno dopo mi ha risposto stesso, perché a parte è in gamba questo. Ma tu no, noi siamo sempre qua. Già l'hai visto, te l'ho inoltrato il messaggio. Lui, ma io ti fa vita una bocca piena di... Ma... A futidini Luca! E quando c'ho la vista dico mi voglio cambiare, ah, è da Matteo ce lo dica, la dottoressa. A chi tanto mi rompendo il cazzo con tutti i visiti che io non devo fare e non ne voglio. Vai tranquillo, gli ho mandato anche il messaggio dopo se c'erano posti liberi, capito? Adesso vediamo se mi risponde, anche se non dipende da lì sicuramente. Vabbè, ti ha fatto l'ultima di tutto, allo sicuro. Ma chi è che c'ha? Mi ha rompito due veri capo di Luca. Vai a mangiare. Cazzo, mi manda a fare la visita a rubori e mi manda in oculistica a fare la visita a luci. Mi ho poco d'esame, chi dà, ragazzo, mi ha fatto esame che nessuno mi vuole va. Se mi sono ammazzato per farmi arrivare. Secondo te per caso di questo? Ma infatti. Tu vieni con me, ci prendiamo, ci dà lo stesso appuntamento anche lo stesso giorno, capito? Tu si andiamo a fare il burro. E a Viro, tu magna. Perché vediamo di risolverla questa questione. Ma dimmi tu, cazzo, non ti pari sbagliata la storia, dammi una cattura solo di trici, una cappina, una difettosa, cazzo, e si risolve. Cazzo, io non lo sarei portato me le ho comprate per colpa di loro. Ma ne la posso finita. Ah, guarda che ti troverai bene con questo, veramente in gamba questo. Sì, ma l'ho detto in Giulio. Se c'era la carbaccio prima, non so se ce l'avevi avuta anche tu. Cosa, Luca? E c'avevo prima la scardaccio, capo anche quella, tu sei la zevvera, chissà ma che ha fatto ricoverare, pensa tu, perché secondo un cabuso io mi bevo una caccia di birra di cazzo, non ibico birra, bubu. Vabbè, cosa vuoi fare? No, ma a me, ma ne poco la stessa vedi, qua giù la glicemia sotto controllo, a chi viaggio buco la poco questo cazzo di diabete, sto alle regole, e da voi mi tratti buco così, ma vaffanguala. Vabbè dai signore, vi lascio che io devo mangiare. Ci sentiamo alle prossime, 73 a tutti, dai, al limite se ci siete più tardi. No, non te ne andare. Dammi il controllo prima, almeno, di modulazione. Ha cambiato qualcosa? Ma è schifo. Ok, perfetto. Ah Marco, già stai andando bene. Buona cena Natalino, dai. ho attaccato l'MB più, no, che MB, l'M95. Vedo che la batteria è carica, naturalmente questo per uscire al pari del KPO, che a metà, KPO a metà, questo lo devo mettere oltre 3/4, dai, per uscire pari di volume. La timbrica sicuramente è un po' più acuta leggermente, non so se Luca ha sentito quello precedente. Sì, le ciambe 3/4 Adi, in uno cura. Gappa, no, già sta facendo bene. Ma. Vabbè, comunque, sì, questo c'è anche i bippi, sì. Oh, stile pomponi, a bozza. Adesso sto tutta la sera così. Quanto è brutto, è brutto un po', anche questo, figuriamoci così. Ehi, ma no, infatti, bip, se potessi togliere anche il bip dell'apparato lo farei. Bene, tutti scomparsi, vediamo se il profeta può rientrare. Oh, le domeniche a casa non passano mai, mai. Cioè, quando fai roba magari ti distrai di più, ma come stai così posando? Le 2, le 3, ancora le 4, ancora le 5, ancora le 6. Per carità, guarda. Non si trova, si trovi qualcosa da fare, allora io o me ne vado in terrazzo e mi metto a fare, o capisco sempre i vendi, insomma. Poi fai sempre le stesse cose, non è che... Fai bene, fai bene! Mi lo metti! Giusto, l'importante è produrre. Avanti, buonasera. Ciao Marco, ciao Luca, è Natalino, buon appetito. Arrabbiato è Natalino, Natalino, un pochino nervoso. Ho appena acceso e avevo sentito un Natalino che si stava lamentando. Ecco da Luca, dai che impazza il Natalino, non fallo arrabbiare per cortesia, eh? No, sinceramente ci ero avuto attento per un'oretta perché l'antenna la stavo collegando a un accordatore che sto facendo. Così che era attento, poi sono rientrato. No, anzi, perché è arrabbiato, c'ha ragione. Infatti gli ho detto vieni dove sono io, al centro di Abici, che veramente ti troverai bene. Ma non metto in dubbio che lui non abbia ragione, però tu no, non lo istigare, fa piacere. Sto scherzando lui, sto scherzando, ci mancherebbe altro. No, era la televisione, stavo ascoltando la televisione, stavo seguendo la messa del Mariana o come si chiama, boh. Vabbè, comunque, va bene così. Vai Marco! Ehi a Giulio, così ci siamo un po' divertiti, abbiamo scazziato, se si può dire. Stavo provando i microfoni, sono passato dal più 5 al KPO, questo microfono del nord-est Europa, è il migliore come timbrica, quest'altro ancora è l'M95 più metallico, quindi giusto per non lasciarli fermi, sennò tanto vale svenderli, pazienza per lasciarli fermi, ma vedo che vanno, in macchina magari sono più utili, perché in macchina sempre deficita la modulazione, ho notato, quando sono in macchina che il segnale mio scende, me lo dicono, anche l'altro giorno ho chiesto un controllo, ero a Campanella e mancava la modulazione, cioè col mic normale non ce la fai tanto in macchina a passare il QRM e la propagazione, dai, va bene, riprendi Giulio. Ok Marco, sì, beh, io adesso quando tu eri a Campanella non lo so, però tempo fa ti avevo sentito quando trovavi a bancare, credo perlomeno, e avevi chiesto un po' il controllo un po' a tutti, da me arrivavi benissimo, Santiago 995 e la radio era buona, come buona anche questa di adesso, di questo momento, anche se c'è un pochino di metallico però, rispetto alla solita modulazione tua, ma è ottima anche questa, non c'è problema, non c'è problema, vai. Sì Giulio, scusa, la sono sventiato, volevo dire proprio bancali, non campanetta, bancali, tanto la campagna è lì e quindi... Eh sì, diciamo, ricevevo più basso del controllo che mi hanno dato, in proporzione ricevevo segnali più bassi di loro, però insomma abbiamo capito che a Sassari arriva, dai, quindi conta che ero dalla bara mobile, con antenna da 1,60 m, 1,5 m, sì 1,60 m massimo, quindi con un'antenna anche mezz'onda messa sul tetto ce n'è d'avanzo, va bene. E infatti ce l'ho disponibile per usi futuri, come dico io sempre. Va bene, vediamo se è rientrato doppio room, per esempio. E io già ci sono, sto facendo un lavoro, dai, scusate, ciao Giulio, vi sto ascoltando. Ciao Gianni, non ti avevo ancora sentito, ciao. Ciao Giulio. Ciao, l'altro chiedo, non l'ho conosciuto. Sono io, Tonino. Oh, ciao Tonino, pittaglia, ero una di 7 inviti, come va? Ciao, va bene, giù. Ho messo il microfono, ho messo il signor microfono, ragazzi. Ehi, il tuo microfono si fa la grande, no? Non c'è problema, è il tuo microfono la grande, la radio io ti sento sempre molto molto bene, se non te l'avrei già detto da tempo, invece mi arrivi spalato, proprio spalato, nel vero senso della parola. Ecco, mi fa piacere, sono entrato, andato lì, sì. È andato a mangiare. Allora, io stavo cercando qualcosa per lui, non mi ricordo dove l'ho messa, comunque entro domani io lo procuro, lo cerco di nuovo come si deve, apro la valigia, qualcosa e poi glielo porto, scusi almeno ce l'ha. Ah, il pungirito, via. Sì, ma già rientrerà, ha detto che dopo che mangia potrebbe rientrare. Torino, questo è il terzo mic, il terzo microfono, l'M95, guarda, dovrei uscire simile al profeta, M95, che dire, già lo conosci, no? ZG da Palmo, né infamia né lode, però credo che il KPO come timbrica sia il più pulito. KPO, perfetto, metti il centro super bene, con i microfoni che hai cambiato è perfettamente chiara la modulazione. Cioè, dopo tutto, magari qualcuno, vanno tutti bene, però qualcuno si distingue, sicuramente il KPO la timbrica più neutra. Mi guarda, senti com'è pomponioso questo, c'è anche il bip questo. Bellino, pirimi. Mamma mia, è brutto il bip, infatti l'ho già tolto prontamente. Va bene, funziona tutto, vedo che le batterie sono cariche e io qua metto sempre solo o Duracell o Energizer. Va bene, fatto questo sproloquio, rilancio a Luca Flipper. Ciao Luca. Ciao Luca allora. Sì, sta sempre facendo, dice ci sono o non ci sono, e sempre vende. Sempre facendo, costruendo antenne, costruendo toroidi, filtri audio, di tutto, guarda, è incredibile. Poi c'è quella tecnica anche che usa lui per, come si chiama, per trasferire il colore sul materiale, quella con le vaschette d'acqua, una cosa fighissima quella, e sembra proprio a livello industriale come finitura, non sembra nemmeno una cosa applicata così. Vabbè, se quando rientra mi dirà il nome della tecnica. Va bene, va bene, almeno farò qualche cosa. Allora, ha fatto il PC, perfetto, veramente, sono contentissimo. E qualche altra cosa, comunque, andrà bene. Va bene, chi è rimasto poi per qua? A parte Giulio, Gianni Querix, Natalina sta mangiando, tu, io, l'Uprefetta c'è. Allora, lui si era caffeinizzato, però non è più rientrato, ma ancora no. Gianni, sì. Posso mollare? Dopo caffè. No, Gianni l'altro. Sicuramente Gianni sta manomettendo qualche microfono a me. Sì, perché non stavo uscendo. Io appunto. Io pensavo che era un profeta, troppo caffè ho avuto. Vabbè dai, Giulio, riprendi tu, dai. Ok Tony. Sì, infatti per un attimo è mancato Gianni, infatti non ho avuto modo di ascoltarlo abbastanza, almeno per stasera. Gianni, riprendi, fammi sentire la tua bella voce, caspettina, che col microfono non ne ho uscito poc'anzi. Vai Gianni doppio due, l'altro Gianni io non l'ho sentito per la verità. Non so se è all'ascolto, ad ogni modo lo saluto se per caso lui è in ascolto. Avanti Gianni doppio su. Io sto facendo un capo di massa, dai. Sto costruendo un capo di massa per il microfono perché mi fa alternata. Sto cercando di migliorare la situazione. Ah ok, già ho capito, se devo alternata, prova a girare anche la spina dalla presa, può darsi che alle volte può essere anche quello, e cambiando la polarità, può essere, non sempre, però alle volte può succedere anche quello, inverti la posizione della spina di alimentazione, può succedere. E magari Tonino che si intende di elettricità può darmi la conferma. Vai Tonino. Ah, è vero, anche a me per fare un difetto devo girare la spina e anziché il positivo mi dà negativo e va tutto perfettamente bene, anche quello. Va bene, se io voglio aumentare anche il volume di questo microfono, guarda un po' Giulio, 1, 2, 3, prova di modulazione, com'è la radio più forte? Più forte, chi te spacca orecchie? Bellissima, fortissima e...